Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City, la città intelligente. Questa sera vogliamo parlare di un aspetto un po' peculiare, diciamo l'inaspettato, potremmo definirlo così, che sta cominciando ad emergere, che viene fuori dai primi progetti smart. E lo facciamo con un ospite di eccezione, Carlo Aratti, ingegnere, architetto, considerato un po' un guru a livello mondiale di tutta questa partita delle smart city. Dirige il Sensible City Lab del MIT di Boston, che ha però base anche a Singapore, esattamente dove il nostro Carlo Aratti si trova in questo momento. Buonasera Aratti. Buonasera. Veniamo ad alcuni progetti ai quali hai lavorato e che hanno fatto emergere delle situazioni appunto inattese. Una riguarda il Digital Water Pavilion che il tuo studio ha progettato nell'ambito dell'Expo 2008, quello di Saragozza. Che cosa è successo lì? Tanto dici come funziona questo strano edificio. Sì, ma questo è un edificio che è nato da una domanda del sindaco di Saragozza proprio prima dell'Expo. Aveva appena vinto l'esposizione mondiale, tema dell'esposizione mondiale l'acqua, e la domanda del sindaco fu molto semplice: l'acqua, questo bellissimo ingrediente dell'architettura, dell'urbanistica, di tutto il Mediterraneo, dell'Europa del Sud, eccetera, come potrebbe essere usata oggi in modo nuovo grazie proprio alle nuove tecnologie e al digitale? E la nostra idea fu quella di immaginare un edificio completamente fatto d'acqua, ma d'acqua controllata un po' goccia per goccia, un'acqua con cui si possono fare delle pareti, su cui si può scrivere, si possono far vedere delle immagini, tutte fatte d'acqua, insomma, non proiettate. Ed è un po' come uno schermo di un computer, ogni goccia rappresenta un pixel, solo che invece di star fermi i pixel cadono come fanno le gocce. È così, diciamo. Come fosse una grande stampante ad acqua, esatto. Cadono giù, però mentre cadono giù ti raccontano delle cose e poi magari si aprono per farti entrare. Passaggi e quant'altro. Le stanze si allargano, si restringono, insomma, quindi questa grande scatola d'acqua che risponde alle persone. E a un certo punto però il computer che controllava la stampa, diciamo così, è impazzito, è andato in tilt. Beh, no, non è proprio impazzito, diciamo che questo edificio risponde alle persone, quindi quando tu ti avvicini si apre per farti entrare, quando sei dentro ci sono più persone, i muri si spostano per rendere lo spazio più grande o più piccolo, quindi insomma risponde alle persone. Una sera tutti questi sensori che riconoscono le persone hanno smesso di funzionare, ecco. Quindi l'edificio continuava a funzionare ma non rispondeva più agli stimoli, diciamo. Esatto, continuava a scrivere sull'acqua, quindi a casaccio, a fare scritte, immagini, eccetera, ma non rispondeva più alle persone e noi eravamo terrorizzati perché non sapevamo cosa sarebbe successo. In realtà quella sera è stata una delle sere più belle, con migliaia e migliaia di bambini da tutta Saragozza che sono venuti al padiglione per giocare in modo nuovo, non più un padiglione che si apre per farti entrare, ma un padiglione in un certo senso che devi quasi sfidare, devi saltare senza bagnarti, saltare senza farti prendere dalla goccia d'acqua. Sono partiti tutti questi giochi. Ecco, raccontiamo subito il secondo caso e poi proviamo a farci una riflessione sopra, che riguarda invece una cosa avvenuta proprio lì al MIT di Boston. Beh sì, in quest'altro caso avevamo appena finito una mostra al MoMA, al Museo d'Arte Moderna di New York, curata da Paolo Antonelli. In questa mostra noi avevamo lavorato su dei sistemi per il tracciamento dei rifiuti in particolare dell'elettronica e dei computer, mettendo delle piccole etichette sui rifiuti per vedere dove vanno a finire. E un giorno, ecco, queste cose succedono nell'università italiana, così come succedono al MIT a Boston, come da tutte le parti, è venuto un ladro nel nostro laboratorio e ha rubato un sacco di cose, tra cui anche alcuni dei computer che ti dicono, con le etichette che ti dicono dove vanno. E quindi pratica. Quindi, la cosa interessante è che sarei quindi, dopo pochi giorni, siamo subito riusciti a rintracciare certo. Il materiale. Siamo anche riusciti via telecamera a vedere chi è che lo stava adoperando, quindi siamo andati alla polizia dell'MIT. Devo dire, la polizia ci ha messo un po' a capire cosa era successo. Ci credo. Guarda, questo è il ladro, si trova lì, queste sono le sue fotografie, se volete andare a prenderlo. Praticamente hanno quasi rischiato di arrestare uno dei nostri ragazzi che è andato lì con le fotografie e dice: guardate, questo è il ladro. Dice: ma lei come fa ad avere le fotografie? Certo. Dico: no, le fotografie le ho prese attraverso questo sistema informatico, così, no? E così. Però ci ha messo un pochino a ferrare insomma, sì, cosa era successo. Sì. Poi sono andati lì, tra l'altro questo era qualche mese fa, si è concluso il processo da poco e quindi l'intera vicenda si è poi chiusa recuperando tutto il materiale che era stato rubato. Allora, insomma, la morale, oltre a non rubate al MIT, come fai spesso notare tu, quale può essere? Che riflessione possiamo fare su queste applicazioni inaspettate che sono emerse? Ma io direi da un lato c'è una riflessione che riguarda proprio la nostra interazione con l'ambiente costruito, con le nostre città, con i nostri edifici, con i nostri oggetti. Ecco, la mostra del MoMA, del Museo d'Arte Moderno, si chiamava proprio Talk to Me, parlami. L'idea è che grazie alla tecnologia le nostre cose e il nostro ambiente ci parla, ha un'interazione più dinamica con noi, un po' il vecchio sogno anche dell'architettura che risale al barocco, che risale al Liberty, e in queste condizioni, in questa interazione, il discorso a volte è sorprendente e può andare in direzioni inaspettate. Del tutto inaspettate, che possono essere positive come i due casi di cui abbiamo parlato, però insomma a volte non lo sono. Recentemente qui a Milano la fusione di due software per la gestione delle ferrovie, quelle delle Ferrovie Nord e delle Ferrovie dello Stato, ha creato una situazione di caos totale. Anche questo diciamo che è un effetto inaspettato. C'è un po' questo elemento dentro questa partita delle Smart City? Assolutamente sì, e diciamo quando creiamo questi sistemi che in gergo si chiamano sistemi cyber physical, cioè sistemi che mettono insieme il mondo fisico e il mondo digitale, cioè il mondo dei bit e il mondo degli atomi, dobbiamo fare molta attenzione. Da un lato creiamo queste interazioni più dinamiche, ma possiamo creare anche degli effetti inaspettati in senso negativo. Abbiamo visto tutti l'ultimo film di James Bond, dove proprio cosa succede? Beh, questa guerra è una guerra che passa su internet, passa sul digitale, ma a un certo punto poi diventa un edificio che scoppia o diventa qualcosa che ha un'azione sul mondo concreto, come abbiamo visto per la prima volta in modo concreto con l'azione contro la centrale nucleare iraniana, l'attacco hacker, diciamo. Insomma, stiamo costruendo anche delle fragilità e bisogna stare attenti a non costruirne troppe, no, in questo processo verso una città più intelligente. Assolutamente sì, c'è un grande valore positivo, ma assolutamente facendo attenzione alla forza del sistema e a evitare le possibili fragilità. Grazie ancora Carlo Ratti. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.